Ora vogliamo passare a quella che è la lettura, il passo per questa sera. Benedici l'altro e termina. E lo leggiamo insieme. Sempre in piedi, perché stiamo dando ascolto alla parola di Dio. Io lo so che io, la mia persona, se mai vi fa rilassare, dice questo per mezzanotte finisce, ma... Atti, leggiamo da Atti capitolo 9, è una storia che conosciamo, dal verso 10 al verso 20, io in un qualche modo continuerò quello che è il messaggio di questa mattina, però alla maniera mia, come il Signore parla a me, e io vi assicuro che a me il Signore parla con i personaggi, perché mi conosce. Sa quanto elementare sono, sa che io conto sul naso e che ho bisogno di vedere e di toccare. E i personaggi della Bibbia, è qualcosa di incredibile. È la vita vissuta dell'Evangelo. I personaggi della Bibbia fanno vedere passo passo quello che il Signore affida, come realizzarlo. E lo vedremo attraverso, questa è una storia, ma è anche un personaggio, anche se ce ne sono di più, ed è Anania. Ora, a Damasco, conosciamo Damasco? Capitale della Siria attuale, in guerra, tutto quanto, C'era un discepolo di nome Anania e il Signore gli disse in visione: Anania. Egli rispose: eccomi, Signore. E il Signore a lui: alzati, va nella strada chiamata diritta e cerca in casa di Giuda uno di Tarso chiamato Saulo, poiché ecco, egli è in preghiera e ha visto in visione un uomo chiamato Anania entrare e imporgli le mani perché recuperi la vista. Ma Anania rispose: Signore, ho sentito dire da molti di quest'uomo quanto male abbia fatto ai tuoi santi in Gerusalemme. E qui ha ricevuto autorità dai capi dei sacerdoti per incatenare tutti coloro che invocano il tuo nome. Ma il Signore gli disse: va, perché egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re e ai figli di Israele, perché io gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome. Allora Anania andò, entrò in quella casa, gli impose le mani e disse: fratello Saulo, il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada per la quale venivi, mi ha mandato perché tu riacquisti la vista e sii riempito di Spirito Santo. In quell'istante gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista. Poi, alzatosi, fu battezzato. E dopo aver preso cibo, gli ritornarono le forze. Rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco e si mise subito a predicare nelle sinagoghe che Gesù è il Figlio di Dio. Potete accomodarvi. Che storia avvincente e incredibile. Ora, il tema di questa sera è: quanto vale uno? Poniamoci questa domanda: quanto vale quell'uno che il Signore mi ha affidato e mi vuole affidare? Quanto vale? Quanto vale uno? Ora noi questa sera esamineremo un pochino questa storia. Io ho preso 7 punti invece dei 97, va bene? Quindi ce la caviamo. Man mano che andiamo avanti voi capite a che punto siamo, ma non vi illudete, perché possiamo essere verso la fine e quell'ultimo punto risuscita e dura tutto il tempo, va bene? Quindi nessuna illusione, ma proseguiamo. Il primo punto che noi abbiamo letto riguardo alla storia è scritto nel verso 10, dice: ora a Damasco c'era un discepolo. Veramente avevo scelto delle cose ancora più, poi non si poteva, sai, i nostri poverini sono lì in regia, sono limitati, non riescono come a me a fare le cose moderne e tecnologiche, allora li dobbiamo scusare, sono eccezionali, grazie per quello che fate, veramente. E questa è la storia che abbiamo iniziato anche a Mottola. Quindi Mottola è in streaming stasera. Allora Mottola, mo reagite fra di voi, perché l'abbiamo già iniziata questa storia. Ma andiamo a vedere un discepolo. Chi è o che cos'è un discepolo? Un ministro? Un ministro di Dio? Certo, uno come Giacomo e Giovanni, che di loro è scritto, lasciarono prontamente le reti e seguirono Gesù. Certo, un discepolo. O uno come Paolo, che sapeva talmente tanto parlare bene che la gente di Listra lo aveva chiamato come il... Dio Apollo, se non sbaglio era Apollo, era non laddove si vende Apollo là, il pollo, no, ma Apollo era un dio greco, un dio, è chiaro, Apollo, perché era un messaggero, era uno che sapeva bene parlare. E quindi anche questo è un discepolo. Chi è un discepolo? Chi è un discepolo? Domandalo a chi ti sta a fianco. Secondo te chi è un discepolo? Io non ve lo chiedo perché ne sentiamo di tutti i colori, va bene? Ed è giusto quello che avete detto. Però io vorrei fare un altro piccolo esercizio. Ci sono, secondo voi, però mo dovete rispondere sì o no, corale, ci sono in mezzo a noi discepoli? Oh, benissimo. E chi è secondo te un discepolo? Puoi nominare nome e cognome? Chi è che lo vuole dire? Il sì era così corale? Afferriamo qualcuno. Rino, chi è un discepolo? Nome e cognome. Daniela, la moglie. Tanto per... Sì, chi ti sta a fianco? Quello è un discepolo che ama il Signore e mette in pratica la parola di Dio. Daniela, metti in pratica la parola di Dio? Non, questo è un altro discorso, lasciamo stare. Ma... certo che la mette in pratica, come la metto in pratica io. Una parte. e l'altra parte sto camminando per metterla in pratica, va bene? Ma questo non mi toglie di essere un discepolo del Signore Gesù, questo non ti toglie di essere il discepolo del Signore Gesù, qualsiasi è la tua condizione e da quanto tempo tu vieni qui, sei un discepolo del Signore Gesù. Anania è l'unica volta che viene nominato nella Bibbia e da questo noi lo conosciamo. Anania era un discepolo che era in Damasco e quindi lui poi, ecco quello che viene il secondo punto, ha sentito Dio parla. A chi parla Dio? Corale, a chi parla Dio? A noi, a tutti quanti, nessuno escluso, fratelli e sorelle. Non c'è nessuno escluso di noi. Il Signore parla a ognuno in una maniera differente, a ognuno in un tempo differente, ma il Signore parla a ognuno di noi. A ognuno di noi. Posso vedere la mano di chi il Signore non gli ha mai detto niente, nemmeno una parola, nemmeno qualcosa? Ecco, bravi. Sapevate che venivate fucilati già da qui, è vero? Perfetto. Il Signore parla a ognuno, anche se non lo credi, anche se non lo riesci a vedere in questo momento, il Signore parla ad ognuno di noi. Ma io sono da poco nella Chiesa. E io so da 50 anni e diventi a una certa età anche sordo. Non c'entra niente, anche se sei qui stasera per la prima volta. È perché Dio ti ha parlato, forse qualcuno ti ha portato questa sera per la prima o le prime volte e tu hai detto, vabbè, pur per non sentirlo questo, andiamo una volta. Quella è voce di Dio, è incredibile, quella è voce di Dio, perché il Signore vuole parlare anche attraverso di questo. Il Signore parla ad ognuno di noi. Con Anania lo ha fatto per mezzo di una visione. Ora io vorrei sfatare tutti i miti comuni che noi abbiamo riguardo a questi paroloni nella Bibbia, che è molto più semplice e molto più comune di quello che noi non pensiamo. Che cos'è una visione? Ora, una visione, certamente una visione è un'immagine. È un'immagine completa che noi riceviamo nella mente, nei pensieri, dove vediamo semmai la visione di un fiume che scorre con gli alberi. Incredibile, in un attimo puoi avere mille particolari di una visione, è vero o no? Ma non è quello importante, è il messaggio contenuto in quella visione. Quello è quello che Dio vuole dire e vuole dirci e vuole affidarci. Quindi, ma una visione è anche una sola parola che ci viene nella mente. Una parola. È il Signore, è lo Spirito Santo che te la... Una sensazione addirittura, una sensazione. Quante volte è scritto nella parola di Dio ho sentito? Quel sentire è da parte del Signore, per una situazione, per una persona, per qualcosa, per qualsiasi cosa. Quella è una visione. Così parla il Signore a noi. Può essere un pensiero, può essere un sogno. Non è il sogno importante con tutti i particolari, ho visto, che ne so io, ho visto, prendiamo, qualsiasi davanti a noi che era così e vestiva così, non è quello la parte, ma il messaggio che c'è dentro, quello che il Signore vuole dire a noi, quella è la visione, così il Signore parla a noi. Anania ha ricevuto questa visione così specifica. Anzi, io vorrei aprire anche a questo punto una parentesi, proprio per accentuare il fatto di ascoltare la voce di Dio, di dare ascolto a quello che il Signore mette nel tuo cuore tramite una parola, tramite una visione, tramite una parola profetica, tramite qualsiasi cosa. Abbiamo sentito che la settimana prossima c'è dono perché amo, e che è una raccolta, come abbiamo sentito, extra che noi facciamo per quante cose. Anche il fatto che noi stiamo qui in questo locale, che lo abbiamo potuto aggiustare in questa maniera, è stata grazie a Dono perché amo. Così abbiamo proprio iniziato Dono perché amo. Ora, quello che io voglio dire, non fare dei meri calcoli. Ah, questa volta lo dobbiamo dare per il centro che dobbiamo costruire, servono tanti soldi, allora vediamo, oppure questo è il mio periodo nero che non riesco ad avere. Non fare dei calcoli, fatti anche in questo parlare dalla Signore. Ascolta la voce dello Spirito Santo, perché Lui guida anche in questo. Questa era solo una parentesi per dire: esercitiamo di ascoltare la voce del Signore. E non ci facciamo impressionare di come è scritto qui ed è scritto in più parti della parola di Dio, è scritto «è Dio disse». E quel Dio disse ci impressiona così tanto che poi noi diciamo «e a me non dice mai niente». Non è così. È alla stessa maniera che il Signore parla a noi. Posso vedere sinceramente la mano di chi ha ricevuto una parola, ma anche nel passato, anche adesso, anche recentemente, ha ricevuto una visione, una parola, per se stesso o per altri. Posso vedere la mano? Mamma mia, che bello! Datemi di nuovo le mani, mo non è che diminuiscono, no, eh? Mo non è che diminuiscono le mani, vediamo le mani di chi. Allora, logicamente può essere molto personale. La prima che trovo davanti, non ce l'ho con te. Vuoi dire quello che il Signore ti ha detto semplicemente anche con una parola? Se è qualcosa di personale che appartiene a te, non ti preoccupare, non siamo obbligati. Allora, io ho avuto una visione di una persona che non conoscevo e il Signore mi ha portato in questo luogo a trovarmi con questo Signore e io per ubbidienza ho messo in atto quello che il Signore mi aveva detto di fare. Alleluia. Gloria a Dio! Vedete? Lo ha fatto! Lo ha fatto! Sì, possiamo fare anche l'applauso. Non è l'unica! Tutti quelli che hanno... E anche quelli che non hanno alzato la mano... Perché probabilmente sapevano che io scendevo. Ma questo è, fratelli e sorelle, questo noi siamo. Il Signore parla, lo dobbiamo mettere in opera. Che poi quella persona ha ricevuto o non ha ricevuto, ha fatto o non ha fatto, non è responsabilità nostra, è Dio. È Dio che lo deve, ma noi dobbiamo prendere quell'ubbidienza. Andiamo al terzo punto, altrimenti non la finiamo più. Il terzo punto, sempre che riguarda, e siamo solo al terzo, nemmeno a metà, che riguarda Anania, qual è? Eccomi, me la faccina parla proprio. Eccomi. Eccomi, questa è l'esatta definizione di chi è o che cos'è un discepolo. Un discepolo è eccomi. Signore, non lo so fare, ma sono qui. Signore, non sono capace, ma sono qui. Signore, non ho voglia, ma sono qui. Eccomi. Questo è veramente il significato più profondo dell'essere un discepolo. Ma sono qui, e l'esempio che calza più a pennello con noi, con il modo di essere, è un altro personaggio della Bibbia, Gedeone. Tutti conosciamo Gedeone, è vero? Dice, l'altra sera abbiamo mangiato insieme. Leggiamo la Bibbia. Per piacere, non ci accontentiamo dei surrogati. Io leggo il calendario. È bello. Ma è come dire al bambino che mangia la sabbia e la mamma dice, beh, tanto qualcosa nello stomaco lo mette. Ma non nutre. Ecco, leggi la Bibbia, quella cartacea, quella sull'iPhone, su tutte queste cose, va bene, ma leggila. E questo è di... Allora, Gedeone, va bene, un po' la storia. Gedeone era nel periodo di Israele, che erano, sai, Israele era una volta ubbidiente, una volta disubbidiente. Questo è il caso, che è stato disubbidiente, si è allontanato da Dio, un po' come noi facciamo a livello individuale. E veniva oppresso dal popolo dei Madianiti. Che cosa facevano? Non è che li dominavano così, no, loro facevano delle incursioni, partivano con tante persone, con tanti uomini ben armati, arrivavano là, distruggevano, bruciavano i campi di grano, razziavano tutto il bestiame che vedevano, portavano via tutto il grano e così via dicendo. In questa situazione viveva Gedeone, la sua famiglia e tutto Israele. Allora, Gedeone che cosa faceva? Gedeone ha avuto coraggio, ha seminato, è stato ancora più temerario quando è andato a falciare il frumento. E la cosa più eccellente, aveva coraggio, era forte, si sentiva ancora più forte, si è sentito quando doveva trebbiare il grano, batterlo per farlo uscire, il grano o qualsiasi altro frumento, e si è andato a nascondere fra le rocce perché lì il rumore non si sentiva e poteva nasconderlo direttamente in buche o in grotte che c'erano e quindi salvava il raccolto. Gedeone. Veramente forte e coraggioso, uno dei pochi in Israele. Fino a quando? Il Signore non gli parlò. E gli disse, Gedeone, come lui? E come lo chiamò? Uomo forte e coraggioso. Quel che lui aveva dimostrato, il Signore non ha detto niente di speciale, lui aveva dimostrato coraggio, aveva dimostrato temerarietà, aveva dimostrato veramente intraprendenza, ogni cosa, e così l'ha chiamato, uomo forte e coraggioso. E quando quale fu la risposta di Gedeone all'angelo del Signore? Vi ricordate? Chi si ricorda? Dice, è proprio a me, proprio uguale a noi, no? E dice, e io sono il più piccolo, e la mia famiglia è la più piccola, non abbiamo mezzi, non abbiamo tanti soldi per farlo. Lì tutto il coraggio se n'era andato via, perché il Signore gli aveva parlato. Esattamente come reagiamo anche noi davanti alla parola di Dio quando ci parla. Ma Gedeone che cosa ha fatto? Alla fine anche lui ha detto, non lo so fare, sono il più piccolo, la mia famiglia non mi appoggia, tutti quanti sono contro, ma eccomi, che cosa devo fare? È incredibile, e ha liberato il popolo di Israele per quell'eccomi, per quel sono qui. E questo il Signore non fa niente quello che stai vivendo, ma dai ubbidienza alla parola che Dio ti ha dato e Lui farà cose grandi e meravigliose tramite di te, tramite di me, sì, proprio tramite ognuno di noi, come lo ha fatto con Anania. E poi che cosa ha detto ad Anania? Questo è il quarto punto. Che cosa ha detto ad Anania? E questo è il verso 14. Va. Il Signore dice ad Anania: va, il Signore manda. Come abbiamo sentito anche stamattina per chi c'era, il Signore mette in azione. Il Signore mette in azione. Quando senti dentro, quando senti una parola, quando ti viene affidata una sensazione, il Signore te la dà, me la dà, per metterti, per mettermi in azione, per farci agire immediatamente, per farci agire subito. Perché dobbiamo capire questo, che l'immobilità, la sedia per intenderci, l'immobilità è figlia delle scuse. È proprio adesso, e non sto passando un periodo buono, e prima guariscimi, e prima dammi questo. L'immobilità è figlia delle scuse. Invece quello che il Signore chiede a noi, quello che Dio chiede a noi, non è l'impossibile, non è l'irrealizzabile, è qualcosa di fattibile, di quantificabile. Ora, se hai un nome, se hai una sensazione, se hai un qualsiasi cosa che il Signore ha affidato a te, devi sapere, come con Anania, che lo Spirito Santo già ha preparato il campo. Prima che Anania andasse, prima che Anania ricevesse quella visione, il Signore aveva già lavorato in Paolo. Quindi lui è andato solo per completare, solo per mettere la ciliegina sulla torta. Niente di particolare. Sappi che lo Spirito Santo è all'opera in quella persona che il Signore ha messo nel tuo cuore, o che metterà, o che sta mettendo. E se lo Spirito Santo è all'opera, per piacere, non facciamo in modo da interrompere l'azione dello Spirito Santo, non continuando quello che è affidato a noi, quello che il Signore comanda a noi. Quindi sappi che poi ti manda, quando il Signore ti manda a qualcuno o a qualcosa, devi sapere questo per certo e per biblico proprio, ti manda sempre a dare una buona notizia. Non ti manda mai a dare giudizi, non ti manda mai a dire sentenze, non ti manda mai, ma per dare una buona notizia, come ha fatto con Anania. Anania ha ricevuto una buona notizia da portare a Paolo. Ma qual è la risposta che Anania diede a Dio? Ma dopo tutto quello, ma eppure dobbiamo comprendere questo, che è logico questo ma di Anania. È logico, come è logico i nostri molti ma al Signore. Perché se noi andiamo a rileggere, a rivedere la storia sotto un'altra luce, ci rendiamo conto di un fatto molto, diciamo, come dire, reale, che Anania viveva. Anania dove viveva? A Damasco. E chi era arrivato da 3 giorni a Damasco? Paolo. Anania viveva a Damasco e Paolo era arrivato e stava lì da 3 giorni. È vero che la città di Damasco oggi conta oltre 1,5 milioni di abitanti e con l'Interland fa 6 o 7 milioni di abitanti, ma all'epoca era un crocevia da dove passava il commercio. E come si dice, il paese è piccolo e la gente mormora, eh? Lo sapevano tutti che era arrivato Paolo, stava là da 3 giorni, e anche la chiesa del Signore, cioè i discepoli, i credenti, avevano sentito che Paolo, perché se no come lo faceva a sapere Anania? Dice: questo abbiamo sentito dire che a Gerusalemme ha perseguitato i tuoi. Quindi se lo dicevano, le chiacchiere giravano, quindi era un ma logico. Dice: ma signore, proprio immaginate la scena di allora, perché poi parlando fra di loro i credenti, che cosa dicono fra i credenti? Oh, lo sai che è venuto Paolo, il persecutore dei credenti? Sì, e poi un altro risponde: però il Dio lo ha accecato. Gloria a Dio, dice il terzo. E Anania, il pio Anania, lui è più pio, va sul terrazzo e dice: Signore, grazie che tu ascolti le nostre preghiere. È sottointeso, questa è proprio la preghiera nostra, è sottointeso che hai accecato Paolo. Ma è proprio a lui allora mi mandi? Ma è proprio a lui tu mi mandi? Ma è figlio della paura. Quando ogni volta che noi esprimiamo un ma, vuol dire che io avevo la paura che già Jonathan era là. E mo fra poco lo vedete comparire perché mi dà la segnalazione. Oh, e chi è? No, sì, al quinto, no, andiamo subito, non ti preoccupare, andiamo. No, va benissimo, va benissimo, che bello vedere come ognuno funziona in maniera stupenda nel servire il Signore. Ma eravamo a questo ma che è figlio della paura, ma con la paura, ma con le gambe tremanti, ma con il timore nel cuore, ma con la incapacità dentro di sé, è andato a Paolo, anzi è andato a Saulo, e un Saulo è diventato un Paolo, chiamato l'apostolo delle genti. Quanto valeva quell'uno di Anania? Quanto valeva? Valeva uno? Valeva 10? Valeva 100? 1,000? Forse più di 1,000. Migliaia, perché Paolo ha visitato tutto l'impero romano conosciuto allora e probabilmente è arrivato persino in Spagna. Immaginate che cosa ha fatto quell'uno. Perché? Perché Anania è stato fedele e ubbidiente nell'andare. Alla stessa maniera, vedete, come abbiamo sentito questa sera da Gianluca, la nostra preghiera. Filippo ha avuto anche lui una visione e il Signore gli ha detto: vai anche sulla via che va da Gerusalemme a Gaza, lì, e a fare che cosa? Vai. E lì passava un carro con una persona sopra che leggeva il libro di Isaia. Quindi lui è andato solo per ascoltare, seguiva il carro e ascoltava che questo leggeva Isaia. Quando lui ha finito gli ha fatto solo una domanda: ma hai capito quello che hai letto? Quello no. Apriti cielo, da lì è partito, dalla Genesi ed è finita ad Apocalisse, gli ha spiegato tutto, tanto è vero che alla prima pozzanghera di acqua lo ha battezzato, e non è incredibile? Ma non finisce qui. Questo qui era un ministro di tesoro della sua nazione, e quello è tornato nella sua nazione, e tramite uno una nazione ha conosciuto il Signore Gesù. La preghiera va oltre quello che noi possiamo pensare e immaginare. Ma arriviamo subito al punto 6, però vorrei dire ancora una cosa. Sapete quale fu la risposta di Dio a ad Anania? Come rispose Dio? Vi ricordate? L'abbiamo letto, però lo so che... Sapete come rispose? Ma! Alla stessa maniera si rispose Dio. Ma non era un ma di paura. Ma un ma ci sono io. Ma un ma non lo devi fare tu, lo faccio io. Un ma che... Vedete, prendiamo l'esempio di Giona. Giona ha ricevuto, anche dove lo sappiamo, nel pesce, non ha voluto andare a Ninive per annunziare che il Signore gli aveva detto: vai ad annunziare il ravvedimento, altrimenti periranno. Che cosa è successo? Giona è andata alla città di Ninive, ha annunziato il ravvedimento e quelli si sono ravveduti. Ma Giona è rimasto deluso. Perché? Perché il suo messaggio non è stato realizzato. E qual era il suo messaggio? Siete peccatori e morirete. Questo non è il messaggio del Signore Gesù. Il messaggio che il Signore ci ha affidato è il ravvedimento delle genti e dare speranza alle persone, affinché loro ricevano, ognuno riceve una nuova possibilità. Punto 6, poi passiamo subito al 7. Le 6, andiamo veloce adesso. Che cosa è successe? Arrivato là, impose le mani. La preghiera di nuovo. Impose le mani. Pregò per Paolo, lui ricevette la guarigione, la parola di Dio veniva realizzata e verificata attraverso Anania, e quindi il messaggio per noi è: quando il Signore ti mette una persona davanti, quando una persona ti racconta un suo problema, cogli l'occasione di pregare insieme, di imporre le mani. Quando sai una situazione che il Signore la affida a te, prega, non cercare di risolvere. Perché nel momento in cui tu cerchi di risolvere, altre 10 situazioni simili sorgeranno in quella persona. Prega affinché il Signore lo faccia. Imponi le mani affinché il Signore operi. Così ha fatto anche Paolo, vi ricordate? Ci sono tante storie, tante cose, ma io lo dico solo per suscitare in voi il desiderio di andare a leggere queste storie e confrontarci con loro e vedere, e questa è la meditazione anche durante una storia, la ricordi facilmente, un verso gravoso lo dimentichi subito dopo. Qua tu vai a leggere, che ne so io, in Apocalisse, guai a te, subito dopo l'hai dimenticato. Ma le storie, ti confronti con le situazioni che tu vivi e puoi realizzarle alla tua maniera. Quando hai qualcuno, prega. Prega, non cercare di risolvere. Prega, il Signore stesso lo fa. impuse le mani e Paolo ricevette la salvezza, il battesimo, la guarigione. È incredibile, è da lì. E poi l'ultimo punto, vado veloce, Jonathan, sono all'ultimo punto, punto 7. E terminiamo qui, ma ci deve parlare tanto, è il più speciale. Subito, nel verso 20 proprio è scritto: e si mise subito a predicare nelle sinagoghe che Gesù è il figlio di Dio. Subito, subito, è incredibile, immediatamente, da una visione che ha avuto l'Apostolo Paolo, subito si è messo a predicare. Non ha importanza che sei da poco che hai conosciuto il Signore, o come ho detto prima, che sei per la prima volta questa sera qui, il Signore affida subito di raccontare e di dare quello che hai ricevuto. Anche se hai ricevuto questa sera una sola parola, un solo pensiero, il Signore te lo sta affidando affinché tu vai, ti metti in azione e lo trasmetti e lo realizzi in quello che Lui ti ha affidato. Forse siamo qui da tanto tempo, 50 anni come me e più. Il primo amore... Sai come si ricerca il primo amore? Iniziando dall'annunziare Cristo Gesù, quello che hai ricevuto. Così rinasce il primo amore, annunzia. Dice il consiglio di Paolo al suo figlio spirituale Timoteo, quale fu? Vi ricordate? Annunzia. A tempo e fuori di tempo, cioè quando è conveniente e quando è sconveniente, non ha importanza, ma annunzia perché il Signore te l'ha affidato e quella è la volontà di Dio e perché Lui ha fatto un piano e quel piano lo realizza Lui. Lui ha fatto un piano e lo ha affidato a te, ma Lui lo realizza. Lui ha fatto un piano, lo ha affidato a me, ma Lui lo realizza. Questa è la vittoria del nostro Signore Gesù nella nostra vita. Amen. Amen. Vogliamo alzarci in piedi e ringraziare il Signore. Signore, grazie per la Tua parola così speciale per ognuno di noi, ma così anche personale. E vogliamo affidare a Te, oh Signore, ognuno di noi, per la parola che ha ricevuto, ma per le parole che ha ricevute. E fa che ognuno possa attuarlo così nella semplicità, perché questo è il tuo mandato per noi. E io benedico ognuno nel tuo nome, Gesù.